Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per la prima volta una figura femminile riesce a vincere i pregiudizi, riesce a vincere il sessismo, la misoginia, tutte cose molto presenti ancora nella società, e diventa candidata ufficiale per diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi un passaggio storico. Questo aiuterà le donne di tutto il pianeta ad andare avanti, a credere che una corsa come questa è possibile, quindi a non ritenere più il genere femminile un impedimento. Queste le considerazioni e l'augurio anche della Presidente della Camera italiana Boldrini nei confronti di Hillary Clinton. Stasera è la notte di Hillary alla Convention Democratica, perché sarà lei a parlare, una volta consacrata candidata ufficiale democratica alla Casa Bianca, la prima donna che potrebbe effettivamente conquistare Washington. E questo, diciamo, Hillary ha detto, questo aiuta anche solo la sua candidatura, se mai vincerà, a fare in modo che le bambine sognino in grande. E devono pensare invece in grande, o in modo sicuramente più strategico, gli antiterrorismi, l'intelligence e le forze dell'ordine di buona parte dei paesi europei, perché continua questa allerta terrorismo dopo quello che è successo in Francia, in Germania. Poi emergono anche le falle dei sistemi di sicurezza. E tra l'altro tutto questo, visto che adesso c'è anche la novità che a Cannes hanno previsto che per questa estate non si potranno portare borsoni grandi e zaini in spiaggia, proprio per prevenire il terrorismo, quanto questo effettivamente sta cambiando un po' la quotidianità delle nostre vite, e anche quindi cambierà queste vacanze, questa estate. Questo è uno dei temi che affronteremo, e poi parleremo anche, per alleggerirci, dei tre film che sono, fra i vari temi, i tre film che sono candidati per il Leone d'Oro a Venezia, tre film italiani. Intanto però vi ricordo che per i vostri commenti, le vostre riflessioni, le vostre domande sulla pagina Facebook di Effetto Notte, o il 349-238-6666, sono appunto i vostri due canali per interagire, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238-6666, che è il numero per SMS e per WhatsApp. Intanto però vi do come sempre un riassunto della giornata. L'allerta terrorismo. In Francia prosegue la polemica sulle falle nella sicurezza. In Germania, dopo gli attentati, la cancelliera Merkel dichiara che non cambia politica sull'accoglienza e presenta un piano in 9 punti per la sicurezza. Il Papa in Polonia, la Chiesa si doni agli altri a zero le distanze, dice Francesco, la giornata mondiale della gioventù. Inciampa prima della messa e poi si rialza. Stati Uniti alla Convention Democratica e la notte di Hillary. Obama assicura è la migliore di tutti. Spagna, il leader conservatore Rajoy è il nuovo premier incaricato, ma al momento ha solo il sostegno dei suoi deputati. Mediaset attacca, denunciamo Vivendi in sede civile e penale. La perdita di 27 milioni del primo semestre è anche per la vicenda Premium, dice Mediaset. Unioni civili, il decreto Ponte è in Gazzetta Ufficiale, domani in vigore, entro 5 giorni, il decreto del Viminale per le formule degli atti di Stato civile. Cinema alla Mostra di Venezia, 3 film italiani in concorso del regista Piccioni, Johnson e Danolfi Parenti. Per il calcio, Higuain si presenta ai tifosi juventini e dice: De Laurentiis mi ha spinto ad andarmene. Partiamo quindi dall'allerta terrorismo, dalle novità che emergono dalle indagini in Francia dopo l'attacco di Rouen. Con il passare delle ore emergono particolari inquietanti nell'inchiesta sull'attentato nella chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray. Anche il 19enne Abdel Malik, complice di Adel Kermiche, era pericoloso e i servizi francesi lo sapevano. L'avevano schedato poco meno di un mese fa, il 29 giugno, con la lettera S, quella dei radicalizzati. Solo 4 giorni prima dell'omicidio nella chiesa, l'unità di coordinamento della lotta antiterrorista aveva diffuso poi una nota nella quale affermava di aver ricevuto da un servizio straniero un'informazione su un individuo che sarebbe pronto a partecipare a un attentato sul territorio nazionale. La segnalazione non aveva un nome, ma una foto, quella di Abdel Malik. Nessuno, però, ha messo in collegamento la foto con il nome. In realtà Malik era entrato nel radar delle forze dell'ordine in Turchia il 10 giugno, dopo aver tentato di entrare in Siria. Ma la segnalazione alla Francia è arrivata solo il 29. Come mai? Tutto questo mentre il settimanale francese L'Express pubblica il contenuto di una chat su Telegram fra i due attentatori. Prendi un coltello, vai in una chiesa, fai una carneficina. È uno dei pochi messaggi che si possono riferire fra i due. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Consiglio francese del culto musulmano ha lanciato un'iniziativa particolare. Invita i responsabili delle moschee, gli imam e i fedeli musulmani di recarsi domenica mattina 31 luglio a Messa, magari nella chiesa più vicina a casa loro, per esprimere solidarietà e cordoglio dopo il vile assassinio, scrivono di padre Jacques Hamel. Questo è quanto si legge in una nota diffusa appunto dal Consiglio francese del culto musulmano. Per l'organismo si tratta di un modo per esprimere nuovamente l'appoggio della comunità dei musulmani di Francia ai nostri fratelli cristiani. Intanto, per quanto riguarda la Germania, la cancelliera Angela Merkel convoca una conferenza stampa e annuncia che le sue politiche sull'asilo non cambieranno. Nessun cambiamento della politica sull'asilo in Germania dopo gli ultimi attacchi. La cancelliera tedesca Angela Merkel interrompe le vacanze e torna a Berlino per rassicurare un paese ancora profondamente scosso dal susseguirsi di episodi di sangue, diversi dei quali legati all'estremismo islamico. Ce la faremo, ripete come un mantra la cancelliera, rievocando le parole da lei stessa usate poco meno di un anno fa di fronte alla marea di immigrati che affluiva verso l'Europa seguendo la rotta balcanica. Immigrazione e terrorismo, un binomio sempre più radicato nell'inconscio di una nazione impaurita. La Merkel condanna le violenze di Wolfsburg e Ansbach come azioni di terrore islamico, parla di guerra all'ISIS, non all'Islam, e aggiunge: 11 mesi fa ho detto che la Germania è un paese forte, vinceremo questa sfida storica. Per rendere più chiaro il messaggio, delinea i 9 punti del nuovo piano per la sicurezza. Tra le novità in arrivo, un abbassamento degli ostacoli per l'espulsione dei richiedenti asilo, un sistema di preallarme sulla radicalizzazione tra i rifugiati e la possibilità dell'intervento dell'esercito in seguito a grandi attacchi terroristici. Dobbiamo agire per colmare le lacune, ha chiusato la cancelliera. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso dell'Italia. Invece, due marocchini sono stati espulsi ieri, lo ha confermato il ministro dell'Interno Angelino Alfano in Senato. Si tratta di un giovane di 25 anni indagato per aver scaraventato un crocifisso del Settecento a terra nella chiesa di San Geremia a Venezia, e di un uomo di 67 anni che aveva fatto irruzione in una chiesa a Cles in Trentino. E salgono così a 102 gli espulsi dal 1 gennaio 2015, compresi alcuni imam, così ha precisato il ministro dell'Interno. Un conto è la preghiera, un conto è l'assassinio in nome di un Dio che non ha autorizzato quella preghiera. Allora il nostro lavoro sta nel rendere efficace questa separazione. 8 imam sono stati espulsi perché noi riconosciamo il diritto alla preghiera, la nostra Costituzione lo riconosce, ma il diritto naturale prima della nostra Costituzione è il diritto alla preghiera. Ma se tu inneggi alla violenza, se tu inneggi fai una predicazione anche antisemita, magari come è accaduto frequentemente, tu vai fuori, perché quella non è predicazione ma è un inneggiare alla violenza incompatibile con i valori della nostra Costituzione e delle nostre leggi. E questa è in corso, vi dicevo, sta diventando insomma un'estate di controlli, soprattutto in Francia, a Cannes, dove c'è stata questa ordinanza che vieta di portare gli zaini o delle borse, dei borsoni, le borse grandi in spiaggia per questioni di sicurezza. Quindi come sta cambiando il nostro modo di vivere, la nostra quotidianità e anche queste vacanze, ne parleremo tra poco qui Effetto Notte. Adesso ci spostiamo invece sul Papa in Polonia. La Chiesa, dice, si doni agli altri, azzeri le distanze, dice Francesco, che è lì in Polonia per la Giornata Mondiale della Gioventù. Tu, fra l'altro, questo piccolo incidente, è inciampato prima della messa, ma poi si è rialzato abbastanza agilmente. Ci faremo raccontare più tardi, collegandoci direttamente con la Polonia, questa giornata del Papa, in vista anche di domani, che è quella più importante, che si concluderà ad Auschwitz. Stati Uniti adesso, la convention democratica e la notte di Hillary Clinton. In chiusura della convention di Filadelfia sarà lei naturalmente a prendere la parola, introdotta questa sera, questa notte, dalla figlia Chelsea. E intanto ieri il presidente Obama è stato il protagonista della notte di ieri, ha assicurato lei è la migliore di tutti, e nel corso di Effetto Notte ci collegheremo con Filadelfia. Adesso invece siamo sulla politica italiana. Il Consiglio dei Ministri, i principali provvedimenti amministrativi potranno contare su una corsia preferenziale, ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa illustrando una delle decisioni del Consiglio dei Ministri di oggi, ma ha parlato anche della pubblica amministrazione, ha detto più soldi per il rinnovo dei contratti di statali, ma i furbi vanno puniti. Sentiamo. Siamo pronti a discutere. Sappiamo che la cifra appostata in stabilità è una cifra poco più che simbolica, che quindi ci sarà bisogno, se arriveremo a fare l'accordo, di più denari. Siamo pronti a mettere più denari su questo, purché sia chiaro che chi lavora nella pubblica amministrazione e lavora seriamente, lavora per bene, deve essere premiato. Chi fa il furbo deve essere punito. Quindi Salvatore Chicco Padula, buonasera, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao Chicco. Buonasera, ciao. Questi due dei temi principali di questo Consiglio dei Ministri, no? Quindi una corsia preferenziale per i provvedimenti amministrativi per scavalcare tutta una serie di intoppi burocratici e poi di nuovo sulla pubblica amministrazione. Sì, guarda, il Consiglio dei Ministri ha fatto sostanzialmente quattro decreti attuativi della riforma Madia per la pubblica amministrazione, tra cui quello che hai citato tu, cioè un provvedimento che serve a rendere più veloce l'iter burocratico per realizzare infrastrutture, quindi grandi opere, ma anche insediamenti produttivi, attività imprenditoriali capaci di dare una spinta alle economie dei territori. Quindi alcuni progetti che possiamo pensare, un po' a progetti strategici, potranno avere una corsia preferenziale nel caso in cui gli intoppi burocratici, il presidente, il governatore, la regione, un comune si mettono di mezzo perché non vogliono che si realizzi quell'opera, allora verrà accelerato il processo che consentirà di approvare e di realizzare l'opera stessa. L'altro tema importante è quello che hai citato tu, tra l'altro ne avevamo parlato proprio l'altra sera insieme, e cioè il fatto che dopo 7 anni di mancati rinnovi contrattuali per i dipendenti della pubblica amministrazione si apre questa via che dovrà portare al rinnovo dei contratti. Il tema grosso è quello delle risorse. Attualmente la legge di stabilità stanzia solo 300 milioni per il rinnovo dei contratti, cosa che si tradurrebbe in un aumento di poche decine di euro, infatti, forse all'anno, per i 3 milioni e 100 mila dipendenti della pubblica amministrazione. Renzi, in chiusura del Consiglio dei Ministri, ha detto che stanno lavorando per cercare più risorse. Più risorse. Grazie, allora, buona ricerca. Grazie Salvatore Padula. Chicco, grazie Padula. A te. Ciao. E buonasera a tutti. Buon lavoro, Chicco. E poi il referendum, si continua a parlare, il dibattito è sempre molto caldo nella politica italiana, col centrodestra che è compatto per votare no. Nasce 2 metri quadri di libertà, la nuova iniziativa di Forza Italia per dire no al referendum. Così il capogruppo alla Camera, Renato Brunetta. Un bel no alla riforma, alla scheforma, come dico io, un bel no per mandare a casa Renzi. Non mancano comunque accenni a quanto sta accadendo dentro il centrodestra e soprattutto in Forza Italia. Fa serpeggiare un forte malumore la presentazione di Parisi come esponente e guida di un futuro rinnovamento del partito, che rischia di diventare la bad bank degli scaricati da Berlusconi. Parliamoci chiaro, l'epoca di coloro che si ritengono unti dal Signore, come tale pretendono di stare in Parlamento, secondo me è finita. Renato Brunetta prende le distanze, ma assicura che se Parisi è con Forza Italia per mandare a casa il Premier e per dire no al referendum, allora è il benvenuto. Con l'ex candidato sindaco di Milano anche Antonio Tajani, uno dei fondatori di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso di unioni civili, perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ponte sulle unioni civili che consente la tenuta dei registri da parte dei comuni. Da domani, quindi, come dispone l'articolo 11 del testo, il decreto entra in vigore. A questo punto manca un ultimo passaggio previsto dall'articolo 9. Entro 5 giorni dall'entrata in vigore il Ministero dell'Interno deve approvare un decreto con le apposite formule in base alle quali vanno redatti gli atti di stato civile, appunto, per consacrare queste unioni civili. E poi c'è la rottura totale tra Mediaset e Vivendi, la proposta di Vivendi di rivedere l'intesa per la cessione della Pay TV Premium da parte di Mediaset è irricevibile, per questo il Biscione agirà in sede civile penale nei confronti della società francese. Dice: nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha accusato una perdita di 27,8 milioni rispetto a un risultato positivo di 24,2 dello stesso periodo del 2015, a pesare, si legge in una nota di Mediaset, gli esborsi di cassa derivanti unicamente dalla firma del contratto con Vivendi. Di nuovo all'estero con la Spagna, il leader conservatore Mariano Rajoy, premier uscente spagnolo, è il nuovo premier incaricato, ma al momento ha solo il sostegno dei suoi deputati, quindi la strada ancora in salita per formare un governo in Spagna. E poi questa sentenza della Cassazione: basta una connessione internet a sancire un'unione, a patto che il paese dove viene officiata riconosca questa modalità a distanza. Il via libera arriva dalla Cassazione, che ha ribadito, come già stabilito nel giudizio di merito, la validità per il nostro ordinamento del matrimonio tra una cittadina italiana e un cittadino pakistano avvenuto per via telematica alla presenza di testimoni, già riconosciuto come valido dalla legge pakistana. La pronuncia nasce dal contenzioso con il Ministero dell'Interno, che si era aperto nel 2012 quando il comune di San Giovanni in Persiceto, alle porte di Bologna, si era rifiutato di trascrivere questo atto di matrimonio. Importante parlare anche di salute e lavoro. Serve almeno un'ora di attività fisica al giorno, come camminare di buon passo o andare in bici, per contrastare i danni causati da 8 ore giornaliere di sedentarietà, quelle ovviamente trascorse al lavoro. E la conclusione a cui è giunto un nuovo studio condotto su oltre 1 milione di persone e pubblicato sull'autorevole rivista The Lancet in vista delle Olimpiadi estive: la sedentarietà è legata a un aumentato rischio di malattie cardiache, diabete, alcuni tipi di cancro ed è associato a più di 5 milioni di morti l'anno. Il gruppo di ricerca dell'Università di Cambridge e della Scuola Norvegese di Scienze dello Sport ha però valutato che chi siede per 8 ore al giorno ma è fisicamente attivo ha un rischio molto più basso di morte rispetto alle persone che trascorrono magari meno ore sedute ma non fanno attività. E poi c'è il cinema Piuma di Rohan Johnson, il documentario Spira Mirabilis di Massimo Danolfi e Martina Parenti e Questi giorni di Giuseppe Piccioni sono i 3 film italiani che saranno in concorso per il Leone d'Oro a Venezia, ne parleremo nel corso di Effetto Notte. Per quanto riguarda invece il calcio, in chiusura si parla ancora di Gonzalo Higuaín. Ho passato, dice, 3 anni meravigliosi al Napoli, ho letto tanti insulti nei miei confronti, posso solo dire che capisco la loro rabbia. E a proposito di De Laurentiis, dice, non condivido il suo modo di pensare, non il mio. E sentiamo Higuaín. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Prima è partita la viabilità, ma ve l'avevo promesso, quindi la voce di Higuaín ve la faccio sentire, anche piuttosto contrariato, sentiamo. Era un problema de que yo no aveva più rapporto con lui, più che era impossibile. Lui non è stato bene con me e io non ho più rapporto con lui, io non aveva voglia di stare un minuto più con lui, quindi più che era impossibile. Adesso sono ringraziatissimo alla società che ha fatto un sforzo enorme per me e spero di mostrarle che non ho sbagliato. Insomma, ce l'aveva con De Laurentiis, ecco, ha lasciato il Napoli, è passato la Juventus, dice praticamente lui che mi ha costretto a lasciarla. Bene, adesso passiamo ad altri temi, intanto tra poco vi ricordo le notizie principali e voi potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e WhatsApp. Per esempio, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, vediamo se si firma, a proposito della paura: l'azione sradica la paura, non importa cosa si teme, l'azione positiva, autoaffermativa può diminuire o cancellare completamente ciò di cui abbiamo terrore. Questo è Andrea da Cremona. Di questo parleremo tra pochissimo, come vi annunciavo all'inizio. Parleremo di come effettivamente l'allerta terrorismo e tutto quello che sta succedendo, gli effettivi atti terroristici, possano in qualche modo condizionare la nostra vita. Però prima vi ricordo quali sono le notizie principali. La cancelliera Merkel dice in Germania sulla politica sull'accoglienza non cambia, vinceremo il terrorismo. Alfano ai migranti dice è rischioso mettersi in viaggio verso l'Europa. E poi per quanto riguarda gli attentati in Francia, va in chiesa e taglia teste. Questo era l'ordine che viaggiava sulla chat di uno dei 2 killer della chiesa di Rouen. E intanto appunto 9 espulsioni anche dall'Italia. Uno dei killer era a Ventimiglia. Renzi, da oggi corsia preferenziale per gli investimenti, metteremo più soldi per il rinnovo del contratti nella pubblica amministrazione, ne abbiamo parlato, questo deciso durante il Consiglio dei Ministri. E poi il Papa in Polonia nella seconda giornata dedicata appunto alla giornata mondiale dei giovani, la Chiesa si doni agli altri, dice, azzeri le distanze. E poi la notte di Hillary Clinton, la convention democratica, e Obama che dice è la migliore di tutti. Quindi purtroppo, argomento quotidiano, il terrorismo, la paura del terrorismo, le falle della sicurezza, il chiedersi i governi sono in grado o no, le forze dell'ordine, l'intelligence, la Francia in particolare, ma anche la Germania e l'Europa tutta sono naturalmente scosse e stanno vivendo mesi di grande tensione per gli attacchi terroristici e per l'allerta terrorismo che appunto preoccupa un po' tutta l'Unione Europea, perché, come diceva Gentiloni, nessun paese è a rischio zero. In Francia, dopo l'attacco alla chiesa di Rouen, ma anche dopo la strage di Nizza, prosegue queste polemiche sulle misure di prevenzione e di sicurezza, che probabilmente non sono adeguate in Francia, soprattutto perché è emerso che entrambi i killer della chiesa di Rouen erano stati identificati, segnalati e schedati anche come a rischio di radicalizzazione islamica. Uno dei due, addirittura Adel Kermish, era appena uscito di prigione, era agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. Oggi è stato fermato tra l'altro anche un 20enne francese schedato anche lui in Francia. A Cannes Milan, notissima, rinomata località della Costa Azzurra, è stata emessa un'ordinanza che vieta di portare zaini e grosse borse per questioni di sicurezza. In Germania la cancelliera Merkel parla per la prima volta dopo gli attentati, dice: noi comunque non cambieremo la nostra politica di accoglienza, però ha presentato anche delle nuove misure di prevenzione. Dice: quattro attacchi in una settimana sono stati scioccanti, opprimenti, deprimenti, ma non un segnale che le autorità hanno perso il controllo. Effettivamente però tutto questo crea ansia e ci condiziona anche per le nostre vacanze. Per esempio sembra che ci sia un ritorno verso nel restare la propria patria, in Italia in particolare. Ne parliamo con Anna Rita D'Ambrosio, ciao Anna Rita, che tra l'altro parte il 6 agosto con Valeria De Rosa, con Globetrotter 24, dal 6 agosto dai consigli per chi viaggia, per le vacanze, per... Sì, quest'anno sicuramente sarà un programma un po' diverso dagli altri, poi spero che ci sarà un ascolto come l'anno scorso. È un'estate sicuramente diversa, un'estate condizionata da questo cambiamento di abitudini, che però dovrà essere limitato, Roberta, cioè non possiamo vivere un'estate della paura. Ecco, io questo non me l'auguro ed è per questo che è importante anche dare consigli, rasserenare chi fa una scelta di viaggio, soprattutto chi lo fa con le famiglie, per le quali avremo tra l'altro in Globetrotter anche una particolare attenzione, consigli per chi viaggia in famiglia, per chi viaggia con i bambini. Certo, è un'estate particolare, l'abbiamo iniziata con le code a Dover, dei controlli, cioè è un'estate all'insegna dei controlli, quindi in questo senso dobbiamo cambiare le abitudini. Tu avevi fatto riferimento a Cannes. Sì. Ecco, a Cannes ci sono state oggi anche tante polemiche, perché soprattutto le famiglie con bambini facevano notare che una mamma che ha tre bambini, ecco, con una borsetta, portarsi le non cose può sicuramente sono... arrivare in spiaggia. Ecco, è il tema dei controlli e le falle nella sicurezza. Noi stiamo parlando di attentati e poi di falle nella sicurezza. È chiaro che a un certo punto ci sono dei provvedimenti restrittivi e qualcuno diceva: sì, ma non bastava insomma controllare in maniera più attenta determinate cose? Adesso sì, è su tutto il lungomare di Cannes che ci sarà questo divieto e anche nelle strade limitrofe al lungomare. Quindi insomma poi le verifiche di questi provvedimenti, il provvedimento lunghissimo che dura fino al 31 ottobre, saranno anche difficili. Cioè dobbiamo vedere poi chi controlla il controllore, insomma, come sempre. Quindi un po' di pazienza, un po' invece cercare di non essere eccessivamente oppressi da quest'ansia, da questa paura. E tra l'altro anche lì a Cannes i governi e le forze di sicurezza, insomma, prendono un po' le misure che pensano che possano servire, effettivamente poi lo abbiamo visto, no? Nel senso, nei posti magari dove uno meno se l'aspetta, no, anche lì se non porti le borse magari uno lo fa in un altro punto o all'ingresso della... Sì, il tema c'è, insomma l'aeroporto di Istanbul lo dimostra, controlli strettissimi. Forse uno dei più controllati al mondo. Esattamente, ed è successo all'ingresso, cioè non è che se tu il controllo lo sposti eviti la possibilità che si verifichi qualcosa. Insomma il rischio zero, come si dice, non esiste. È chiaro che in questo momento abbiamo la Francia nell'occhio del ciclone e quindi chiaramente ci sono più tensioni per andare in Francia. Noi tra l'altro abbiamo scelto di cominciare la prima puntata di Globetrotter proprio invitando a visitare agosto, la Francia, quindi, con la Francia, proprio invitando a visitare la Francia, che è un paese bellissimo e ha dei posti assolutamente incantevoli. Un po' di attenzione in più, ma ripeto, vivere un'estate della paura non giova a nessuno e soprattutto fa il gioco di chi vuole farci vivere nella paura. Certo, allora lo ricordo, Anna Rita D'Ambrosio con Valeria De Rosa, Globetrotter 24 dal 6 agosto. Quindi alle 10:30. L'estate con serenità. Ciao. Ciao, grazie. Ciao Anna Rita D'Ambrosio. Europa 24 notte. E a proposito di sicurezza e di allerta terrorismo, è proprio di questi giorni l'allarme di Europol, che è l'Agenzia Europea delle Forze dell'Ordine, che è un'organizzazione dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di aiutare e assistere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo e il crimine internazionale. L'allarme che rinnova l'Europol su centinaia di foreign fighters, cioè di questi vari cittadini di vari paesi europei che sono andati in Siria e in Iraq e si sono uniti alle frange jihadiste per combattere a fianco insomma dell'ISIS, che sarebbero tornati dai campi di combattimento in Siria e in Iraq, che sono tornati in Europa. E dei circa 5.000 jihadisti partiti negli ultimi anni dai paesi dell'Unione, appunto per raggiungere il sedicente Stato Islamico, tra 1.500 e 1.800 sono tornati a casa. Molti di loro, dice Europol, non hanno voglia né capacità di compiere attentati, però spiegano i funzionari dell'Agenzia Europea, molti in realtà sono vere e proprie bombe a orologeria. Fra l'altro, oggi il direttore della ISI, che è l'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna italiana, Mario Parenti, è stato ascoltato in audizione per circa 3 ore dal COPASIR, il Comitato Parlamentare per i Servizi Segreti, dicendo che ciò che più si teme in Italia è l'azione di un lupo solitario o di un ristretto gruppo di terroristi, che preoccupa maggiormente appunto l'intelligence italiana. Ne parliamo con il professor Ernesto Savona, che è criminologo e direttore del Transcrime, che è il centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica di Milano. Professor Savona, buonasera. Buonasera. Quindi, insomma, finora abbiamo sempre detto, alcuni osservatori, analisti hanno detto, beh, l'Italia è abbastanza fuori forse dal Milano, non è proprio nel focus di questi terroristi, né dei lupi solitari né dei jihadisti veri e propri dell'ISIS, qualcuno dando la spiegazione che magari non siamo più coinvolti di tanto in Iraq, in Siria, insomma nei luoghi dove si combatte l'ISIS, e però in realtà sempre di più si dice, anche Gentiloni, il ministro degli esteri, ha detto non siamo esenti, l'Italia, nessuno è fuori dal rischio terrorismo. Lei come vede questi allarmi di Europol e della ISI, professore? Allora, l'allarme dell'Europol conferma quello che abbiamo visto e sperimentato sulla nostra pelle. Il numero degli attacchi nel 2016 è stato veramente enorme e gigantesco, e quindi abbiamo capito che sono ritornati. E questo è molto importante. Anzi, sono andati negli anni passati e sono ritornati. Le cause del perché sono ritornati sono abbastanza facili. È una forma della guerra asimmetrica. Nei terreni della Siria, dell'Iraq, Raqqa, perdono e sono sconfitti. In Europa sono vincenti, perché è molto più facile creare un danno con un lupo solitario che creare dei danni a un esercito nei terreni tipici del terrorismo in Asia o in Africa. Dato questo fatto, il problema è la percentuale dei foreign fighters che ritornano. L'Italia ha una fortuna di averne di meno di tutti gli altri in percentuale alla popolazione, e questo spiega, se vuole, in termini di probabilità statistica, perché ne abbiamo di meno. Il rischio italiano, cioè, è minore del rischio di altri paesi, per la semplice ragione che ce ne sono meno che sono andati fuori e quindi sono meno quelli che ritornano. Tenga conto di una cosa molto importante in questo momento: questa guerra asimmetrica viene combattuta con una grande visibilità di comunicazione. Un attacco terroristico in Europa fa parlare tutti i giornali europei per 3-4 giorni sulle prime pagine dei giornali, molto di più di quanto ne faccia parlare quando si vince o si perde nei terreni tipici dello scontro, certo, in Africa e in Asia. E questo è molto importante: si perde da una parte e si vince dall'altra. Questo ci richiede una cosa in più, uno sforzo enorme che i ricercatori e gli analisti stanno facendo, di capire i processi di radicalizzazione. Prima riusciamo a capirli, più riusciremo a prevenirli. E questa è la cosa più complicata. E tra l'altro, vabbè, si continua a ripetere anche lo stesso AISI, l'Agenzia di Informazione e Sicurezza Interna italiana, ha detto il presidente Parente, che non ci sono evidenze o allarmi specifici per l'Italia, ma che effettivamente appunto il rischio non possiamo, nessuno è a rischio zero. Secondo lei, professor Savona, quali potrebbero essere le misure, cioè i servizi segreti italiani, l'intelligence, la mancanza di una intelligence unica europea su cui si dibatte da tempo, che cosa comportano per il nostro paese? Guardi, la prima cosa che stiamo facendo da ricercatori è capire i processi di radicalizzazione. Lo stiamo facendo in America, in Europa. Io dirigo un progetto, Proton, di Horizon 2020, un programma europeo da 4,5 milioni, che analizza proprio i modi e le forme dei processi di radicalizzazione in Europa e altrove. Il progetto partirà il 1 ottobre, coinvolge 20 partner ed è diretto da un italiano che sono io, da un'università italiana, la Cattolica, ed è un contributo rilevantissimo a simulare processi di radicalizzazione che poi verranno restituiti alle forze dell'ordine per le loro investigazioni. Questo è il contributo che i ricercatori potranno dare nello spazio dei 3 anni del progetto stesso. E ancora oggi noi sappiamo qualche cosa, cioè i dati non sono al punto zero, sono al punto, diciamo, 1-2. Se riusciremo ad avere diciamo dei dati migliori nei prossimi mesi, riusciremo a fare delle previsioni abbastanza precise su chi, come e dove potrà avere processi di radicalizzazione. È molto difficile, ma ci si può riuscire. E quindi non mi resta che augurarle buon lavoro, professore Ernesto Savona. Grazie. Grazie ancora a lei. Grazie, professore. Buonasera. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ancora uno spazio, piccolo spazio prima di una pausa con i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Michele scrive a proposito dell'iniziativa del Consiglio francese del culto musulmano che invita i responsabili delle moschee, gli imam e i fedeli musulmani a recarsi domenica mattina a messa per mostrare solidarietà ai fratelli cristiani, no? Come vi avevo detto durante la ricostruzione della giornata. Michele dice: un'ottima iniziativa, comunque questa guerra è tutta interna al culto islamico tra sunniti e sciiti, noi abbiamo sbagliato a interferire. Poi invece Clotilde interviene, diceva bene licenziare i fannulloni, su quello che è stato deciso dal Consiglio dei Ministri sulla pubblica amministrazione, ma non si può introdurre nei regolamenti parlamentari il decadimento dei parlamentari assenteisti, e questo per il momento non esiste. Poi dice: sono gli stessi loro che si stracciano le vesti per i dirigenti RAI che percepiscono lo stipendio senza incarico, ma i responsabili sono coloro che li tengono inattivi. Pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666 per WhatsApp e SMS. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Da qualsiasi parte del mondo ascoltiate Effetto Notte, che sapete che è praticamente ascoltata a ogni latitudine per avere un circoscritto ma esauriente quadro della giornata sia sulle notizie dall'Italia che dall'estero. Adesso per esempio, tra poco vi ricordo le principali, ma c'è questa notizia di politica italiana su Scelta Civica, la direzione di Scelta Civica, quanto si apprende, ha approvato le linee programmatiche presentate dal segretario Enrico Zanetti, che sapete si è avvicinato a Verdini. Zanetti, nonché vice ministro dell'economia, dice: il via libera è arrivato con 19 voti favorevoli, un astenuto, ed è stato dato mandato a Zanetti di formare un nuovo gruppo con il nome Scelta Civica trattino verso i cittadini per l'Italia. Alcuni membri della direzione, contrari alla linea di Zanetti, si apprende ancora, hanno lasciato la riunione per protesta contro la procedura adottata questa sera sulla composizione della direzione. Tra poco anche le altre notizie, poi passeremo ad approfondire un altro argomento. I vostri messaggi intanto, per esempio sul rischio di cambiare la propria vita quotidiana e anche il modo di vivere le proprie vacanze di cui abbiamo parlato prima. Alessandra sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: un disastro totale, non si può viaggiare sereni. Poi per i vostri messaggi e commenti anche il numero 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. E adesso torniamo allora a ricordare le notizie più importanti della giornata. L'allerta terrorismo. In Francia prosegue la polemica sulle falle nella sicurezza e in Germania, dopo gli attentati, la cancelliera Merkel dichiara che non cambia politica dell'accoglienza e presenta un piano in 9 punti per la sicurezza. Il Papa in Polonia, la Chiesa si doni agli altri e azzeri le distanze, ne parleremo tra pochissimo. Stati Uniti, alla convention democratica è la notte di Hillary, Obama assicura è la migliore di tutti. Spagna, il leader conservatore Rajoy è il nuovo premier incaricato, ma al momento ha solo il sostegno dei suoi deputati. Mediaset attacca, denunciamo Vivendi in sede civile penale, la perdita di 27 milioni del primo semestre anche per la vicenda Premium. Unioni civili, il decreto Ponte è in Gazzetta Ufficiale, domani in vigore, entro 5 giorni il decreto del Viminale per le formule degli atti di stato civile. Cinema, alla Mostra di Venezia 3 film italiani in concorso dei registi Piccioni, Johnson e Danolfi Parenti. Mi addolora incontrare giovani che sembrano pensionati prima di tempo, giovani che sembra che si sono andati in pensione a 23, 24, 25 anni. Questo mi addolora. Mi preoccupa vedere giovani che hanno gettato la spugna prima di iniziare la partita. È un osservatore, Papa Francesco, alla giornata mondiale della gioventù, seconda giornata nel suo viaggio in Polonia. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, in diretta appunto dalla Polonia. Dicevo, questi giovani vecchi, no, che ha inquadrato il Papa, perché dai giovani si aspetta molto, si aspetta che siano loro, anche in questo momento di crisi, di oppressione, di paura, a dare una svolta, un cambiamento, avere ancora speranza per il futuro. Sì, certo, qui a Cracovia, che è invasa dai giovani, oggettivamente, insomma, si parla ormai di 600.000 e arriveremo a 1.500.000 domenica, quindi cioè, giovani da tutto il mondo, e sono tutti molto giovani, Lui sprona naturalmente in questa fase della crisi economica in generale i giovani di tutto il mondo a reagire. In Italia c'è questo fenomeno, praticamente in tutta Europa, che sono chiamati NET, N-E-T, questa sigla che dice che non, ragazzi che non lavorano, non studiano, non si aggiornano e che non fanno nulla, purtroppo, e forse mantenuti dai genitori. Ecco, questo Papa dice questo, anche si rivolge a questo fenomeno. Naturalmente lui non la butta sul sociologico, va a fondo. Ai giovani dice reagite, poi era anche stato una specie di dialogo, no? Chiedeva, loro rispondevano, insomma. Quindi questo è il oggi è stato il primo grande bagno di folla di giovani in questo caso, appunto oltre mezzo milione, domani ce ne sarà un altro, sabato un altro ancora e domenica appunto quello diciamo principale, e questa è diciamo la giornata mondiale dei giovani. Senti Carlo, anche se sei un particolare così, però tutti i siti avevano come fotografia il Papa che è inciampato sul palco per la messa, sì. Nulla di grave. No, stamattina c'è Stokova che è a 150 km da qui dove eravamo, e c'era una messa lì altre 300.000 persone, e il Papa all'inizio la messa si muoveva per il palco, stava facendo, incensava il palco tecnicamente, era una cosa, è inciampato su un gradino che non aveva visto. È stato un attimo, però nessuno l'ha sorretto, è stato che è caduto, si è rialzato, ha trascorso tutta la giornata facendo tutto quello che era previsto, quindi si è visto perfettamente, non c'erano conseguenze. Stasera padre Lombardi, il portavoce, ha confermato che non è stato neanche visitato dal dottore, perché diciamo è stato un micro incidente senza conseguenze. Senti, c'è il caporedattore del settimanale cattolico polacco, che spero di pronunciare in modo giusto questo nome del settimanale, di Godnik Powszechny, che ha detto che ha osservato che solo lo 0,5% della popolazione polacca è di origine straniera, eppure dice ci sono fortissimi sentimenti anti-islamici, la xenofobia è un fenomeno relativamente nuovo di cui è difficile spiegare i motivi. In Polonia il paese sta contraddicendo la propria tradizione multiculturale, plurireligiosa, siamo diventati un paese con una sola cultura, sono scomparsi gli ebrei, gli ucraini, i bielorussi, i lituani che abitavano qui da secoli, siamo diventati un monolite nazionale e religioso. Dice l'atmosfera di destra, l'atmosfera nazionalista ha definito il cittadino con due parole che vanno sempre insieme, polacco e cattolico, tutti gli altri sono sospetti, stranieri, persone che non appartengono a questa tribù. La Polonia è divisa, è una divisione dolorosa, dice, come se questa, come se fosse anche lontana da un papa come Francesco. Sì, questa è un'intervista fatta a TV 2000, sì. questo giornalista. Ecco, allora diciamo che diciamo questa atmosfera c'è, è profonda. Va detto che la Polonia, nella sua storia, è sempre stata abbastanza, non dico tutti i polacchi, ma buona parte antisemiti. Cioè qui era pieno di ebrei prima del nazismo, però diciamo non è che vivessero in serenità dentro la Polonia. Oggi io qui sono alloggiato nel quartiere ebraico, e parlando stamattina diceva che ancora dire a uno ebreo è quasi un'offesa. Questo perché diciamo così nel mondo slavo cristiano tradizionale le minoranze non è che sono sempre state tollerate granché. Quindi è vero che c'è una tradizione multiculturale, qui hanno molti ucraini per esempio, però non ci sono musulmani, qui non ci sono comunità islamiche per tradizione, anche perché appunto non vengono a lavorare, perché non è che sia un paese florido, però riflette molto il clima della popolazione, cioè c'è un governo conservatore di destra, ma c'è qualcuno che lo legge e sono i cittadini polacchi, quindi la pensano come loro. Quindi diciamo che io non credo che sia quel sinonimo polacco-cattolico sia così fondato, però diciamo che c'è un clima di questo tipo in questo paese è oggettivo. Grazie Carlo Marroni dalla Polonia, salutaci il Papa se ti avvicini. Esatto, grazie, lo sentirò. Grazie. Ciao Carlo, e adesso direi che è tempo della viabilità. Volevo leggere giusto questo messaggio di questa ascoltatrice che dice: io penso che la morte mi deve trovare viva, non voglio limitare la mia diventando vittima della paura, credo, e da nessuna parte oramai siamo al sicuro, perché le serpi le abbiamo in seno, li facciamo anche arrivare, ma non tutti su barconi che sono moderni cavalli di Troia. Il giorno dopo l'attentato di Nizza sono partita per la Normandia, Mont-Saint-Michel, è la cosa più bella che abbia mai visto e non avrei potuto se avessi avuto paura. Così dice Paola da Firenze, un messaggio insomma che incita a essere audaci, a vivere il più serenamente possibile, a essere anche un po' fatalisti. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie principali che vi ricordo tra pochissimo, sempre Roberta Giordano con voi, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Per esempio Daniele sull'iniziativa del Consiglio francese del culto musulmano che invita i fedeli, gli imam musulmani eccetera a recarsi domenica mattina 31 luglio a messa in Francia per dimostrare solidarietà ai propri fratelli cristiani. Dice Daniele: non basta, non più almeno, il dubbio è che sia tutta una strategia, da un lato la parte armata dei musulmani che uccide e saccheggia, dall'altra la parte buona che parla di pace. Questo è Daniele. Adesso però tra poco invece ci tufferemo nell'atmosfera della convention democratica negli Stati Uniti, ci collegheremo con Philadelphia dove si sta tenendo questa convention, è la notte di Hillary. Però intanto vi ricordo velocemente le notizie principali della giornata, che sono appunto sull'allerta terrorismo con la cancelliera Merkel che in Germania dice: noi non cambieremo la nostra politica di accoglienza, e presenta però una serie di norme sulla sicurezza, dice: vinceremo il terrorismo. E il ministro dell'interno Alfano avverte i migranti dicendo: è rischioso mettersi in viaggio verso l'Europa. Insomma, un po' diciamo concetto dissuasivo nei confronti di chi vuole partire per arrivare in Europa. E poi ancora arrivano nuovi elementi dall'inchiesta in Francia dopo l'attacco terroristico alla chiesa di Rouen. Tra loro si scrivevano Adèle Kermiche con altri sul web: va in chiesa e taglia le teste, questa era l'indicazione. Renzi nel Consiglio dei Ministri, nella conferenza stampa, ha detto che da oggi ci sarà una corsia preferenziale per gli investimenti, e anche metteremo più soldi per il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione. Il Papa, ne abbiamo appena parlato, in Polonia alla giornata mondiale della gioventù, la sua seconda giornata in Polonia, dice: la Chiesa si doni agli altri, azzeri le distanze. E poi, come dicevamo, è la notte di Hillary Clinton. No matter how much people try to knock her down, she never, ever quits. That is the Hillary I know. That's the Hillary I've come to admire. And that's why I can say with confidence, there has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton to serve as President of the United States of America. Con che sentimento, con che enfasi, con che emozionalità, e anche avete sentito poi tutto questo entusiasmo da parte della platea. Obama, che ha parlato ieri alla convention democratica che investe ufficialmente Hillary Clinton nel ruolo di ufficializza il suo ruolo di candidata democratica alla Casa Bianca, dice: nessuno è mai stato più qualificato di lei, dice, neanche io, neanche Bill Clinton, lei è la migliore che possiate scegliere. Marco Valsani ha potuto partecipare, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, ed è in diretta da Filadelfia, ha potuto partecipare a questo bagno di folla, a questo entusiasmo. Che tipo di emotività riporti, Marco, da quello che sta succedendo lì alla convention di Filadelfia? Sicuramente un crescendo di entusiasmo che finora era un po' mancato proprio nella campagna elettorale di Hillary Clinton. La serata di ieri, come hai fatto ascoltare, è stata una serata molto molto forte, in cui si sono susseguiti interventi intensi e interventi a forte carica emotiva. Il presidente Joe Biden, il sindaco indipendente, ex sindaco indipendente di New York Michael Bloomberg, il futuro candidato alla vicepresidenza scelto dagli Clinton, Tim Kaine, e poi come avete ascoltato il presidente in carica, il presidente uscente Barack Obama, che ha tenuto un importante discorso sia per presentare agli Stati Uniti, al pubblico, ai delegati, ma anche all'America in generale, una Hillary Clinton appunto la più qualificata mai, il candidato più qualificato mai che abbia mai corso per la Casa Bianca, e sia per ricordare come Hillary incarni i valori fondamentali del paese, non solo del Partito Democratico, ma valori di un paese che è forte nella sua diversità e che è più forte e più sicuro quando si batte per guardare insieme al futuro e respinge la politica della paura, la politica delle divisioni, di cui invece viene accusato il candidato repubblicano Donald Trump. Marco, senti, però stasera parlerà direttamente lei, chiudendo questa convention la introdurrà la figlia Chelsea, che tra l'altro leggevo che vuole incontrare Ivanka Trump, la figlia più in vista di Trump, perché dice: noi eravamo amiche da ragazze e vorrei stemperare un po' questa tensione tra loro, tra i due candidati. È una cosa curiosa questa, no? Sì, non saprei bene che cosa possa emergere da un simile incontro, francamente. Sicuramente Ivanka Trump non è, nel suo intervento, non è un personaggio oscurantista, non ha ricalcato le posizioni più controverse del padre, però ecco, il confronto a distanza tra il suo discorso e quello di Chelsea Clinton dovrebbe avvantaggiare Chelsea, comunque, che ha maggior esperienza e maggior dimostrato nella sua carriera, per quanto giovane, dimostrato sicuramente maggior passione per la politica, per l'impegno sociale di quanto non abbia dimostrato Ivanka. Come ricordavi, lei introdurrà Chelsea, la grande serata di Hillary Clinton, che dovrebbe raccogliere e si sforzerà di raccogliere il testimone da Barack Obama, testimone lasciato anche dai discorsi di ieri, con una sfida non facile a questo punto, un discorso che deve cercare di sancire l'unità del partito, facendo appello anche ai sostenitori della sinistra di Bernie Sanders, dall'altra accreditarsi al paese come il candidato davvero più qualificato, davvero più credibile e competente, in grado di unire il paese, di unire gli elettori moderati come quelli liberal, come anche conservatori che a questo punto siano un po' inorriditi dalle uscite di Donald Trump. Una missione non facile per appunto una Hillary Clinton che finora ha un po' difettato di capacità di generare entusiasmo. Esce comunque da questa convention di Philadelphia un partito democratico più compatto, no? Dalle divisioni che c'erano state, mi sembra che questo sia stato anche un risultato, no? di questa convention. Pronto? Mi senti, Marco? Pronto, Marco Valsania? Pronto? Marco? Sarà mica l'FBI e la CIA qui che ci ha interrotto il collegamento. Io ti sento benissimo, Marco. Vogliamo recuperare Marco Valsania? Ci proviamo ancora due minuti, volevo farmi raccontare altre due cose. Intanto torno sui vostri messaggi, perché c'è per esempio questo ascoltatore, Mauro, che dice: il rischio zero non esiste, va bene, ma voi che avete buone informazioni, sapete dirmi che rischio corro ad andare al mare a Bergeggi, cioè in Liguria? Beh, insomma, non abbiamo la mappa, neanche l'intelligence, neanche nessuno può dire esattamente in quale posto, purtroppo. Dice: perché non mi sento nessuna paura, piuttosto qualcuna di essere investito da una moto sull'Aurelia. Beh, bisogna stare attenti a attraversare, anche a guidare. Potete per favore contattare qualche esperto su quest'ultimo problema, Mauro? Dice, cioè, non ho capito se il fatto di essere investiti sull'Aurelia o se effettivamente c'è il rischio di andare a Bergeggi. Marco Valsania invece a Filadelfia. Marco? Sì, ci sono tornato. Ci eravamo brevemente perduti. Senti, Marco, dicevo un'ultima cosa. Dico, il Partito Democratico comunque ne esce ricompattato, no? Da questa convention, come del resto è successo anche al Partito Repubblicano con Trump, che ha avuto forse più grosse intestine divisioni, no? Era stato sicuramente un candidato che fino all'ultimo non è che tutto il Partito Repubblicano proprio lo accogliesse con grande entusiasmo. Certamente il Partito Democratico esce sicuramente compattato e rafforzato, nonostante le iniziali divergenze, e sicuramente più che non il Partito Repubblicano. Comunque le istanze di Bernie Sanders hanno trovato spazio nel Partito Democratico, con una piattaforma più progressista, e il suo ruolo è stato riconosciuto ufficialmente da tutti, da Hillary Clinton, da Barack Obama, il ruolo importante che Bernie Sanders continuerà a svolgere come leader nel partito. Ricordiamo invece che alla convention repubblicana si può ricordare la grande assenza dei notabili del partito, dagli ex presidenti, dalla dinastia Bush, in particolare, fino al governatore locale dello stato dell'Ohio, dove si è svolta la convention, Kasich, che ha appunto disertato la convention proprio per insofferenza nei confronti di Trump. Stai parlando di quella appunto repubblicana. Senti, fra l'altro un sacco di personaggi dello star system, no, alla convention democratica, mi pare anche Mary Strip è salita sul palco. Sì, assolutamente. Un'altra delle grandi differenze, e che può anche fare una differenza in termini elettorali per la presa popolare delle stelle dello spettacolo e degli artisti, sicuramente sta quella della presenza di Hollywood. Molto significativa alla convention qua a Filadelfia, come ricordavi, Meryl Streep, che ha tenuto un vero e proprio discorso a favore di Hillary Clinton, fino a stelle della musica come Lady Gaga, come Paul Simon, e comunque un susseguirsi o anche di attori e attrici della televisione, del grande schermo, un susseguirsi, ecco, di stelle di Hollywood, mentre alla convention repubblicana una totale assenza di personaggi di spicco della cultura popolare. Possiamo dire che quindi la sfida è partita ufficialmente, si vota l'8 novembre, no? Per le presidenziali. 8 novembre e queste saranno, esatto, l'8 novembre e questi mesi saranno sicuramente intensi e probabilmente, anzi certamente, ricchi di altre sorprese, considerando tutti i colpi di scena che già si sono verificati finora. Grazie Marco Valsani da Filadelfia, Stati Uniti. Ciao Marco. Grazie a voi. Ora invece parliamo di, insomma, manca un mesetto alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia, però già c'è una buona notizia, ci sono 3 film italiani che concorrono al Leone d'Oro, vero Marta Cagnola? Sì, confermo, sono tre i film italiani, buonasera Roberta, e sono 3 film davvero singolari, perché uno è Un maestro che ritorna, Giuseppe Piccioni, con Questi giorni, poi c'è Piuma, che è di Ron Johnson, nonostante il nome strano, il nome è italianissimo, è toscanissimo, è anche un amico di Radio 24, è venuto spesso a trovarci, e poi un documentario di Massimo Danolfi e Martina Parenti, Spira Mirabilis, film visionario. Non si può ancora sapere molto perché è davvero un film molto complesso. Questi 3 film italiani concorso che fanno capire un po' l'originalità che sarà la cifra di Venezia 73. E quindi si sa molto poco ancora su questi film, Marta. Sai qualcosa di più, per esempio, su Spira Mirabilis? Allora, in realtà proprio su Spira Mirabilis si sa particolarmente poco, perché nelle note di regia viene definito come un film girato in diversi luoghi del mondo, una sinfonia visiva, un inno alla parte migliore degli uomini, un omaggio alla ricerca e alla tensione verso l'immortalità. Molto metafisico. Quindi potrebbe, così, esatto, potrebbe essere tutto, pare sia molto bello. E invece Piuma... Quindi questo potrebbe avere delle buone chance, secondo te? Ma poi i documentari sono piaciuti in questi anni, ricordiamo la vittoria di Sacro Gra di Gianfranco Rosi, quindi i documentari hanno sempre molte chance, e quest'anno ci sarà anche un documentario di Terrence Malick, del misterioso Terrence Malick. Mi chiedevi invece di Ron Johnson, è una commedia, la storia di una giovane coppia alle prese con una gravidanza in attesa, ed è sempre una bella notizia che ci siano delle commedie nei festival, perché sempre più la commedia non ha solo dignità di successo di pubblico, ma anche di festival. Mentre il terzo, Questi giorni, di Giuseppe Piccioni, è il ritratto di 4 giovani donne in un momento di svolta delle loro vite. Nel cast ci sono anche gli adulti, che sono Margherita Bui, Filippo Timi e Sergio Rubini. Quindi sono 3 Sarà film un bel vedere, che incuriosiscono, insomma, molto. Sì, sì, incuriosiscono molto. Grazie Marta Cagnola. Ciao Marta. A presto, a presto. Buon cinema, e noi invece ci riaggiorniamo brevemente alle 22:00.